quante favole antiche che non sogno ormai più, quanti amori perduti tra l'infanzia e Gesù. Io li porto nel cuore, gocce di verità, la mia estate che muore e che non tornerà. Resta un pugno di vita e di vigliaccheria e papaveri rossi lungo la ferrovia che volava lontano, senza ma, senza sé. Cerco ancora ma invano la risposta ai perché. Stanno soffrendo e qualcosa di più, sconfitti dai volti umani. Cercano quello che cerchi anche tu, eppure li vedi strani. Cercano un poco di serenità, son figli di questo mondo, orfani di patria e di libertà, son solo dei poveri in fondo. Vivono ai margini, nell'ingiustizia, nei passi di vecchie stazioni, oppure nei ghetti, eterna immondizia, vergogna di generazioni. Vivono in case, chiamate pensioni, se li guardi bene ti specchi. Vivono ai margini, senza illusioni, e la colpa è di essere vecchi. Quante volte ho sbagliato per cercare chissà, quante volte ho cantato tra bugie e verità. E domani sereno volerò in braccio a Dio, coi papaveri e il treno, perché là è il posto mio. E domani sereno volerò in braccio a Dio, coi papaveri e il treno, perché là è il posto mio. Coi papaveri e il treno, perché là è il posto mio.